scuola si c'ha già fa cari, si c'ha con bottega cale cale. Una bagna di ambogipia, la tazzalina ci puca, la maciasi con il fuccia, yawe. Oh, oh, mamma, oh. Abaye, baba, oh. Yeah, ukanifunza kukusifu. Ukuniacha bwana mchana na usiku. Na majeraha yangu, baba, ukanitibu. Mwangaza kwenye giza mimi na